Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentornati, buon pomeriggio, Luca Tremolada al microfono, Luca Dello Iaco, buongiorno. Buongiorno. Noi siamo qui oggi con una puntata di quelle, insomma, importanti, perché sono importanti per Nova, nel senso parleremo di Creative Commons, e Creative Commons è un movimento che Nova segue a lungo. E con attenzione, anche perché poi spesso si pensa che quando si condividono delle cose in rete, dei testi, delle musiche, c'è una copia indiscriminata di tutti i file che rimbalzano da un sito all'altro. Però invece esiste un modo di condividere legalmente le cose, esiste un modo di pubblicare dei testi, di condividere anche dei video, e si chiama questo sistema di licenze, che è alternativo al copyright, si chiama appunto Creative Commons. Allora, facciamo un passo indietro. Nel mondo fisico, se io ho un cappellino e tu hai un altro cappellino diverso, altrimenti sarebbe sciocco, e c'è lo scambiamo, ognuno resta con un cappellino sostanzialmente. Nel mondo di internet, se io ho un'idea e tu hai un'idea, una volta che abbiamo condiviso queste idee, tutti e due cosa abbiamo? Siamo arricchiti, perché tutti e due ci restano due idee. Sì, si modificano l'una con l'altra e continuando a modificarsi migliorano. Ecco, questa battuta, insomma, questo che può essere un aneddoto, ma in realtà non lo è, è un po' alla base del movimento di Creative Commons, che appunto è un sistema di diritti ed è un sistema che permette di pubblicare, di diffondere via internet le proprie idee, che può essere una poesia, un libro, una canzone. E le conseguenze sono importantissime, perché i contenuti, le idee circolano molto più rapidamente. Immaginate se un testo è rinchiuso in un libro, invece su internet può circolare sotto licenza Creative Commons da un sito all'altro, e quindi molte persone lo leggono e in alcuni casi lo possono modificare, lo possono collegare ad altre cose, e tutto questo arricchisce la conoscenza collettiva. Quindi artisti, scienziati, tecnologi in ascolto, chiunque voglia capire come funzionano i Creative Commons, e chiunque, cioè, stia cercando di immaginare un altro tipo di proprietà intellettuale, perché poi è quello di cui stiamo parlando, un'altra proprietà intellettuale, chiamateci 824 0024. L'SMS è 349 238 6666. E passiamo subito ai nostri ospiti. Sì, il primo ospite è appunto il referente italiano del gruppo Creative Commons, e il maggiore esperto che sta sperimentando queste licenze, che è Juan Carlos De Martin. Juan Carlos De Martin, che però è italianissimo, professore del Politecnico di Torino, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo una brevissima scheda su di lei, sentiamo. I libri di Pirandello, i primi film in bianco e nero, le musiche di Mozart. Cosa hanno in comune? Sono opere di pubblico dominio. Chiunque le può copiare, pubblicare e diffondere. Di recente una nuova generazione di creativi ha deciso di condividere legalmente libri, musica e video autoprodotti. Per farlo usano licenze alternative al copyright, chiamate Creative Commons. È un fenomeno che ha accompagnato la crescita dei blog, di YouTube e di Facebook. Juan Carlos De Martin, professore del Politecnico di Torino, è il referente italiano dell'organizzazione che gestisce le licenze Creative Commons. L'ultima sua iniziativa è Comunia, un progetto per coordinare la raccolta del patrimonio culturale europeo, un tesoro ancestrale che sarà liberamente accessibile a chiunque. Allora, prima di passare a Comunia, insomma, qual è il trucco dei Creative Commons? Ma il trucco è semplicemente quello di creare un cartello standardizzato basato sul copyright, quindi Creative Commons è fermamente inquadrato nel contesto del copyright, ma crea un cartello standardizzato che comunica a tutti a quali condizioni si possono utilizzare delle opere tutelate dal copyright. Perché c'è bisogno di un cartello standardizzato? Perché in assenza di indicazioni vale la protezione automatica che offre la legge, che è quella di tutti i diritti riservati, che è stata pensata nei decenni, addirittura nei secoli scorsi, prevalentemente per tutelare le opere dell'industria culturale, quindi opere che si vogliono tutelare in maniera ampia, per recuperare i grossi investimenti che vengono fatti. Quindi, questo, se abbiamo capito, De Martin, in effetti l'idea è quella di licenze che sono più frammentate, cioè frammentano un po' i diritti a seconda delle esigenze. Non userei forse la parola frammentare, ma più che altro chiarire che gran parte dei diritti che la legge concede agli autori vengono rilasciati. Quindi l'autore dice: non mi interessano in tutti i diritti riservati, mi accontento di alcuni diritti riservati e per il resto copiate, diffondete, eccetera. Ecco, qual è il tornaconto? Un tornaconto di chi? Dell'autore che decide di... Io chiaramente faccio un po' l'avvocato del diavolo, però certo, qual è il tornaconto di una persona che dice: ma perché cedere la... perché devo, invece di dare la mia musica a un discografico che me la blinda, me la protegge, mi salvaguardia da amici e nemici, perché la dovrei rilasciare in Creative Commons? Ah, questo parte dal presupposto, questa domanda da ipotetico avvocato del diavolo, parte dal presupposto che adesso, col sistema attuale, i milioni di autori e potenziali autori operino perché pensano a un ritorno economico. La realtà non è così. Milioni di persone che facciano poesia, che facciano musica, lo fanno prevalentemente perché hanno piacere di farlo. Dopodiché, se da questa attività da cui traggono un piacere ci può essere un ritorno economico, chiaramente la cosa fa piacere a tutti. Ma Creative Commons fornisce uno strumento prevalentemente per quei milioni di amatori che internet e le tecnologie digitali hanno abilitato a fare documentari, a fare musica, a fare slide, a fare testi. È rivolta principalmente a loro, non al grande autore che in questo momento ha successo nel sistema tradizionale. E in Italia ci sono degli esempi importanti di Creative Commons che stanno nascendo, stanno emergendo e dimostrano quindi l'interesse delle persone per condividere in rete la conoscenza? Allora, sì, ci sono, adesso vi dico tra un istante. Fatemi dire una cosa importante: Creative Commons, in pieno spirito internet, non è centralizzato, quindi chi vuole usare Creative Commons non si rivolge a noi né necessariamente ce lo dice, le uso e basta, ed è giusto che sia così. Ciò detto, effettivamente di cose importanti ce ne sono e ormai già da qualche tempo. Penso per esempio alla Stampa di Torino Quotidiano, che ha rilasciato ormai 3 anni fa gli inserti sia di libri e l'inserto scientifico con licenza Creative Commons, incluso tutto l'archivio storico dentro cui ci sono tesori della divulgazione scientifica e letteraria. Oppure editori importanti come Feltrinelli o come Stampa Alternativa hanno rilasciato alcuni libri, nel caso di Stampa Alternativa un'intera collana con licenza Creative Commons. Anche per le pubblicazioni scientifiche sta cambiando molto? Allora, lì è addirittura, ovviamente essendo un ricercatore mi sento particolarmente interessato al problema, lì sta cambiando molto, per non dire tutto, e in particolare le licenze Creative Commons sono il modo con cui riviste scientifiche di nuovo tipo, chiamate open access, liberamente accessibili online, vengono rilasciati gli articoli scientifici. Cioè, queste riviste adottano licenze Creative Commons, così come tante altre pubblicazioni, per dire queste opere scientifiche possono essere copiate, diffuse, in certi casi tradotte, ripubblicate. E per i ricercatori, quindi, che cos'è che cambia radicalmente poi con i Creative Commons? Allora, per i ricercatori in realtà è un caso particolare. Voi sapete che per la scienza da secoli si parla della Repubblica della Scienza, quindi di un ecosistema abbastanza particolare di persone che fanno ricerca, che vivono tra pari, il cui obiettivo principale è diffondere il più possibile i risultati della propria ricerca e non per fini di lucro. Quindi le licenze Creative Commons sono uno strumento, un veicolo perfetto per diffondere al massimo i loro risultati. Ecco, in quale settore del sapere, diciamo, in questo momento i Creative Commons stanno dando prova migliore di sé? Direi che dal punto di vista numerico sicuramente nei blog, perché un po' per magari banale imitazione, un po' per effettivo convincimento, ci sono letteralmente milioni di blog con sotto licenza Creative Commons, il che tra l'altro ha legittimato e regolato la pratica comunissima di copiare e rilanciare, tradurre delle blog entries. Dopodiché devo dire che nel mondo musicale abbiamo molti esempi, principalmente di emergenti o di dilettanti che hanno piacere di farsi conoscere e quindi usano licenze Creative Commons anche per il supporto fisico, anche per il CD. Ma quindi è un modo per aumentare la circolazione, per farsi conoscere in effetti? Ma è ovvio che nel momento in cui dico prendete e copiatene tutti, è chiaro che posso anche vedere da un punto di vista di marketing, cioè regolare una diffusione che è nel mio interesse, eventualmente anche economico, per affermarmi e poi fare concerti e fare magari poi un contratto tradizionale con una casa discografica, se sì, proprio quello che si vuole. Tra l'altro i discografici sono quelli che saranno più contenti dei Creative Commons, nel senso che il Creative Commons li disintermedia completamente, nel senso che diventano assolutamente inutili, o sbaglio? Allora, devo dire che fin dall'inizio, quasi dall'inizio, il loro rappresentante in Italia, Enzo Mazza, che è venuto anche a un incontro di Creative Commons in Italia ormai nel lontano 2005, in realtà aveva capito in fretta che Creative Commons... Infatti non si è più fatto vedere. Lo rinviteremo alla prossima volta, che tra l'altro è il 28 novembre, quindi tra poco, però aveva capito, dopo un iniziale sconcerto, che è basata sul copyright, quindi non è un'alternativa al copyright, anche se appunto declinato nel modo che abbiamo raccontato prima, ma in realtà, se mi chiedete il motivo, da un outsider, perché non è il mio mestiere, mi sembra di poter dire che per i discografici, se fossero sufficientemente agili e rapidi, il ruolo c'è, il ruolo però un ruolo più specializzato di marketing, commercializzazione di prodotti, che però rimangono rispetto ad oggi più nelle mani dell'autore di quanto non sia adesso. Ecco, professore, le leggevo subito un sms di Alessandro, un ascoltatore, il quale pone un po' il dito sulla qualità. Dice: spesso però i contenuti in Creative Commons sono di qualità scadente, non c'è un professionista alle spalle, ma c'è qualcuno che fa anche un altro mestiere e quindi decide di pubblicare con questa sorta di schema di diritti. Ma allora è chiaro che non c'è nessuna garanzia di qualità, nel senso che Creative Commons la può usare chiunque, la possono usare in realtà anche dei professionisti di elevata qualità, ma anche tanti altri dilettanti come potrei essere io o chiunque altro. Ma ciò detto, lasciatemi dire una citazione che riassumo a memoria, scoperta pochi giorni fa. Nel 1478 un umanista scriveva a un suo amico in Italia e diceva: questa incredibile invenzione dei caratteri a stampa, che meraviglia, pensavo che adesso avremmo avuto libri fantastici e invece un sacco di libri pieni di stupidaggini che sarebbero meglio se dimenticassimo tutti. Quindi certo, questa geremiade sul fatto della qualità è una geremiade che già mezzo millennio fa stavamo facendo con i libri a stampa. Tra l'altro, professore, noi volevamo fare una puntata con tutte le grandi massime sulla tecnologia. Io mi ricordo una sul telefono, che non si è urlato: il telefono farà sì che non ci si incontrerà più di persona. E ce n'erano parecchi che pensavano una cosa del genere. Comunque, chiudiamo questo capitolo. No, un'ultima cosa che forse è bene sottolineare: Creative Commons non significa individuazione del talento, cioè Creative Commons è semplicemente una modalità di pubblicazione. È una modalità di pubblicazione, ed è abbastanza ovvio che, dato anche il successo che sta avendo a livello mondiale, è anche un modo di far riflettere tutti sull'effettivo tipo di protezione che vogliamo avere come società sulla cosiddetta proprietà intellettuale. Cioè, creando questo sistema standardizzato serve a farci riflettere anche. Nell'era di internet ha senso una tutela fino a 70 anni dopo la morte dell'autore? Per ogni singolo blog entry, per ogni singolo musichetta messa su YouTube? Questa è una riflessione, se vogliamo, implicita nel progetto di Creative Commons, ma che diventa esplicita invece in quel progetto Comunia che avete citato nella scheda. Ecco, ci può dire due parole in più, perché l'abbiamo accennato all'inizio e poi l'abbiamo un po' lasciato cadere? Ma il progetto Comunia è un progetto europeo finanziato dall'Unione Europea, ha 51 membri, prevalentemente in Europa, ma che spaziano dalla Turchia e poi arriviamo fino al Brasile e agli Stati Uniti. E in questo progetto riflettiamo insieme NGO, pubbliche amministrazioni, università e così via, su che ruolo ha nella società, sia culturale ma anche economico, il cosiddetto pubblico dominio, cioè opere che possiamo liberamente utilizzare senza chiedere permesso a nessuno. Si sta scoprendo che questo pubblico dominio è di grande importanza, non solo sociale e culturale, ma anche economica. E anche c'è un Nobel che è stato recentemente assegnato, che è quello per l'economia, che è stato assegnato a Elinor Ostrom, proprio per le ricerche sui beni comuni. L'Ostrom è stata poi la prima donna a ricevere un Nobel per l'economia, questo Nobel ha dimostrato poi quale sia anche l'importanza delle ricerche sui beni comuni, che in quel caso però sono soprattutto beni ambientali come i parchi, i fiumi, e quindi è in effetti un'idea gemella di quella dei Creative Commons. È gemella, ma lasciatemi dire che nel 2007 Elinor Ostrom, insieme a Charlotte Hess, ha pubblicato un libro in cui estende quei risultati alla conoscenza intesa in senso ampio, quindi anche l'intrattenimento, la cultura in senso lato, e trovate online sul sito dell'editore Bruno Mondadori, liberamente scaricabile, ma non ancora in licenza Creative Commons. Aia. Il primo capitolo, che sono 25 pagine, che raccomando a chiunque abbia un po' di curiosità intellettuale, perché la Ostrom estende proprio l'idea dei beni comuni alla conoscenza in maniera assolutamente magistrale. Grazie De Martin. Noi abbiamo in collegamento anche Simona Lodi, che è la direttrice artistica del Festival Touché. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sentiamo anche per lei una brevissima scheda redatta da Luca Dello Jacopo. Corridoi di scaffali, banchi frigoriferi, carrelli per la spesa. Il supermercato è l'avamposto della globalizzazione, il porto domestico dove arrivano le merci, una vetrina della nostra società e della sua storia. Proprio alle forze di mercato, Simona Lodi, critico d'arte, ha dedicato il Festival di Touché. È un percorso ironico tra i luoghi simbolici del consumo, disseminato dalle installazioni di artisti. Tecnologia e arte sono le passioni di Simona Lodi. 7 anni fa ha organizzato una mostra ai Murazzi del Po a Torino. È stato il trampolino di lancio del Festival Touché, arrivato adesso alla 3ª edizione. Allora, 3ª edizione del Festival Touché. È la 5ª edizione, ma... quinta di... piccoli refusi, non c'è problema. Vabbè, non ci picchiate. No. Il perché di... Perché un Festival Touché? Ma Touché in realtà è il nome del nostro dominio, il nostro festival si chiama solo Piemonte Touché Festival, al di là della connotazione regionale. Sì, nasce proprio da un'idea di condivisione, cioè nella mia biografia si fa accenno a questa mostra di Net Art che io avevo curato anni fa in un posto alternativo ai Murazzi qua a Torino. Da allora è nata l'idea del festival e di un festival che si occupasse di arte in un'epoca digitale e tecnologica e che avesse comunque nella modalità della condivisione, quindi dello sharing, del file sharing, che era la modalità anche hacker, no? Dell'inizio della rete, avesse un po' le radici e i valori, diciamo, culturali da portare avanti. Ecco, e il tema delle forze di mercato perché è stato scelto quest'anno? Il tema delle forze di mercato, dunque, innanzitutto è stato scelto insieme a Andy Cameron, che è il curatore ospite di quest'anno per la tematica legata alle conferenze. Volevamo un tema controverso che comunque potesse anche in quest'anno di crisi tormentata soprattutto per noi che facciamo eventi culturali, è stato un anno di grande sofferenza e quindi volevamo anche avere un tema che fosse un po' vicino alla gente proprio in un momento dove effettivamente siamo in una cosmotecnologia, no? Dove gli individui hanno un accesso alla realtà sempre più legato alla rete, e questa cosmotecnologia da cosa è regolato? Dalle forze del mercato, ci siamo detti. E parliamo di forze del mercato, ma a 360 gradi, cioè in realtà ci occupiamo dell'imprevedibilità delle forze del mercato e quindi della teoria della complessità per quello che riguarda le conferenze di questa edizione del Festival. Ecco, e ci sono anche delle operazioni ironiche che in effetti vengono fatte. Esatto. Nel senso che al di là, diciamo, della identificare la complessità come filo conduttore per le tematiche delle conferenze, io ho voluto un po' giocare su il luogo per eccellenza dei nostri consumi, che è il supermercato, no? Quindi forze del mercato anche, diciamo, quotidiane. Allora abbiamo invitato Salvatore Iaconesi, per esempio, che è un artista hacker storico conosciuto con vari nomi, che ha presentato un progetto speciale, che è lo squatting del supermercato, dove effettivamente il discorso legato all'open source non tanto ai creative commons, ma comunque alla libertà, diciamo, di scambiarsi file, codice, eccetera, in rete, è portato avanti. Addirittura lui ha fatto una piccola applicazione visibile da smartphone, anche come l'iPhone, che però non è stata, per esempio, autorizzata dall'Apple Store. Quindi c'è tutto un aspetto anche un po' attivista, no? Legato ai nostri... Fatto arrabbiare Steve Jobs, insomma. Sì, l'ha fatto arrabbiare perché gli ha usato l'interfaccia dell'iPhone in un modo che la Apple non gradisce. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Trevolada al microfono, Luca Dello Iacovo, puntata dedicata ai Creative Commons, per cui insomma stiamo cercando di capire come scambiarci idee, come condividere cose. Sì, anche Nanni Morettiana come espressione. Assolutamente, è anche facile poi adesso, perché con internet diventa molto semplice condividere delle immagini, condividere dei testi, condividere qualsiasi cosa. Tu quanto Creative Commons sei, Dello Iacovo? Ecco, io direi, dai, un 70% Creative Commons ci sono. Cos'è che hai messo in Creative Commons? La tua produzione, ricordiamo, Luca Dello Iacovo, giornalista di Nova, insomma, scrive di scienze e di tecnologia. E quindi se vado in giro e scatto una foto, la metto in Creative Commons su internet con un sito che si chiama Flickr. Oppure se scrivo una cosa sul blog, questa cosa è in Creative Commons. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi vuole può prendere quella foto, metterla anche e copiarla, per esempio, o se proprio vi piace la mettete come sfondo del desktop, non lo so. No, troppa grazia. Però ecco, io posso, per esempio, sul tuo faccione prendere, cominciare a disegnare dei ghigori E poi farci, insomma, quello che ti pare, nel rispetto però dell'autore. Rispetto dell'autore, per cui insomma, se volete massacrare le foto di Dello Iacovo potete farlo liberamente, però non è questo l'obiettivo, insomma. L'obiettivo sarebbe quello di far circolare delle foto, si spera, ecco, un pochino più interessanti del mio faccione, che sono appunto, no, delle foto di paesaggi, o piuttosto pensate anche alle zone dove ci sono dei conflitti o altre emergenze. Quindi mettere, certo, in condivisione queste foto permette una rapida circolazione, e molto spesso poi le reti televisive, piuttosto che i quotidiani, poi le possono pubblicare, avere degli inviati sul posto, e questo lo fanno le persone perché credono nella necessità di condividere delle informazioni e che tutti siano testimoni di quello che accade. Allora, Simona Lodi è direttrice artistica del Festival To Share, una domanda velocissima: quanto sta passando il messaggio del To Share, cioè della condivisione dei contenuti? Ma in questo c'è un po' di una questione un po', secondo me, io non sono un'esperta, devo dire, di diritto d'autore. Lavoro con artisti che normalmente sono abbastanza giovani, quindi hanno una dimestichezza con questi mondi di condivisione digitali come davvero dei nativi, no? I classici nativi digitali. E in questo ambiente devo dire che è il pane quotidiano. Non ultimo il fatto che una delle sei installazioni del premio Share Prize, quella di una, ma ce ne sono più di una, quella di Andrea Smux, per esempio, che è una scultura cinetica che modella il caos, quindi è una cosa estremamente complessa, ma di una semplicità e di una pulizia estrema, utilizza... Noi ci fidiamo, se lo dici tu. cosa sarebbe, certo. Ecco, per esempio, usa Arduino come hardware, per esempio. Okay. No? E quindi Andreas Muxel è un giovane artista tedesco. L'altro giorno chiacchieravamo proprio del perché avessi scelto Arduino, ma non perché mi dovessi preparare per una trasmissione, ma perché comunque è una cosa molto diffusa. E lui mi ha detto: sì, lo uso non solo perché è gratuito, anzi, in realtà non mi interessa questo discorso, ma in senso stretto, ma in senso allargato, il fatto che sia in open source ha dato la possibilità a milioni di persone di sviluppare software legati ad Arduino. Quindi, anche perché Arduino poi è stato creato lì vicino a Ivrea, quindi è anche una cosa piemontese, in effetti. È una cosa piemontese di cui siamo molto orgogliosi. Come ecco, e tra l'altro Arduino è stato anche la prima puntata di Nova Lab. Noi siamo partiti altissimi con un tema anche non semplicissimo, che è l'open source software, tanto per dire, insomma, ci piacciono le cose complicate. Grazie Simona Lodi, però io volevo subito chiamare Andrea Gaggioli, buongiorno. Buongiorno. Ricercatore di psicologia alla Cattolica di Milano. La tecnologia può migliorare la vita delle persone e dei gruppi, ma come? Andrea Gaggioli, ricercatore di psicologia alla Cattolica di Milano, studia le relazioni positive tra uomini e macchine. I mondi virtuali, per esempio, possono aiutare nelle terapie di riabilitazione. Ma Gaggioli non trascura gli aspetti economici della scienza. Ha progettato una piattaforma dedicata ai ricercatori del mondo scientifico e umanistico. Sarà uno spazio su internet dove le persone possono condividere le idee e cercare finanziamenti tra privati, istituzioni e fondazioni. Il nome è una promessa. Open Genius, genialità aperta. Allora, partiamo subito da Open Genius. Ecco, Andrea, ci spieghi come funziona in effetti Open Genius, soprattutto poi, per esempio, con progetti che sono difficili come quelli per le ricerche di malattie rare? Certo. Guarda, allora, Open Genius risponde a un'esigenza molto semplice, quella di aumentare la possibilità di ottenere finanziamenti per la ricerca, e quindi è stato pensato come un marketplace della ricerca scientifica. Voi prima parlavi di open source, parlavi di Creative Commons, di conoscenza condivisa. Ecco, Open Genius risponde alla semplice idea di dire: ok, io sono un ricercatore, ho un'idea di progetto, so quanto deve durare, che finalità ha, quanti soldi mi servono per realizzarlo, metto queste informazioni in internet e chiedo al pubblico di aiutarmi a realizzarlo. Quindi da questo punto di vista sarà una piattaforma web che consente ai ricercatori di pubblicare progetti online e ai donatori, dall'altro lato, di finanziarli direttamente, accumulando quindi le risorse necessarie per realizzarlo. Ecco, Luca mi guarda un pochino scettico su questa idea, però in effetti questa idea è quella del crowdfunding ed è stata utilizzata anche da Obama durante la campagna elettorale, perché il presidente Obama, quando aveva bisogno di fondi, ha chiesto delle donazioni ai suoi sostenitori, e i sostenitori sono arrivati per aiutarlo con piccole donazioni che però messe insieme sono arrivate a centinaia di milioni di dollari. Esattamente. Dall'altro lato vediamo che le applicazioni del crowdfunding non si limitano soltanto alla politica, ma per esempio anche a intraprese creative. Ad esempio, il sito web sellaband.com permette di aiutare delle band emergenti a finanziare i propri progetti musicali, e i donatori diventano stakeholder, cioè in qualche modo azionisti dell'album prodotto, e quindi possono beneficiare di sconti sulla musica una volta che è stata prodotta. Con lo stesso meccanismo vengono finanziati ad esempio anche progetti software, e ci sono diverse varianti anche nell'ambito filantropico, quindi nel supporto alle organizzazioni ONG che operano nei paesi in via di sviluppo. Ad esempio, Kiva.org è un portale che usa il crowdfunding per finanziare intraprese filantropiche nei paesi in via di sviluppo. E in particolare Kiva poi è riuscita anche ad arrivare a 100 milioni di dollari di versamenti nei paesi in via di sviluppo, e ha finanziato, pensate, 239.000 imprenditori nei paesi in via di sviluppo che adesso hanno un'attività produttiva. Esatto, ma in realtà il modello del crowdfunding non è molto diverso in linea di principio rispetto all'approccio usato ad esempio da grandi organizzazioni filantropiche per la ricerca come Teleton, che a differenza diciamo di Open Genius opera con i media tradizionali organizzando le campagne stampa o le campagne televisive. Però anche in quel caso il meccanismo è basato sull'accumulo di tante piccole donazioni per poi avere le risorse necessarie per finanziare progetti di ricerca. In questo caso il passaggio è quello di portare questo modello nella rete e sfruttare il potere aggregante dei social network per appunto cumulare le risorse provenienti da donatori che hanno un interesse in comune. Ecco perché parlavamo di malattie rare, perché questo modello, secondo le nostre diciamo analisi, è particolarmente adatto per supportare la ricerca sulle malattie rare, perché in quel caso diciamo possiamo far leva sulla comunità dei donatori che è particolarmente interessata magari a risolvere un problema specifico. Perché non si trovano finanziamenti poi sulle malattie rare, questo il problema è questo, è che appunto essendo rare non si trovano finanziamenti e non si raggiunge mai la massa critica, per cui ci si affida sempre diciamo ai donatori, che spesso sono anche le persone colpite dalla malattia o i loro familiari. Questo naturalmente è il primo passo di Open Genius, cioè quello di testare in qualche modo questo servizio su un'area che è quella della medicina delle malattie rare, che ben si presta per i motivi che dicevo prima, ma anche può produrre dei risultati misurabili. Ma saranno contenti quelli di Teleton? Magari anche no. Dal mio punto di vista è complementare, esatto, al loro approccio, è semplicemente un'estensione del loro approccio. Diciamo che quello che Open Genius vorrebbe realizzare è anche un avvicinamento del pubblico alla ricerca scientifica, perché i donatori, una volta che effettuano la loro propria donazione, hanno anche la possibilità poi di seguire diciamo gli sviluppi del progetto in quanto donatori, e quindi sono aggiornati poi dal ricercatore che è tenuto a farlo sugli andamenti del progetto, e in questo modo possono capire come sono stati spesi anche i loro soldi, sebbene o male. Ecco, ma anche qui viene disintermediato qualcuno, cioè tutta la storia di internet poi è una storia di disintermediazione, ce l'abbiamo visto con gli discografici e di destrutturazione, esatto. In questo caso il ricorso alla rete diretto per raccogliere dei fondi per poi destinarli alla ricerca medica è abbastanza recente. Che risultati vi aspettate? Ma noi ci aspettiamo risultati interessanti e significativi, dal momento che gli italiani ad esempio sono un popolo di donatori. Se vedete le recenti indagini fatte anche dall'Istituto DOCSA eccetera, vediamo che, e anche il successo per esempio di iniziative come quella del 5 per 1000, vediamo che gli italiani sono propensi ad aiutare la ricerca scientifica direttamente attraverso le loro donazioni, anche le imprese, non stiamo parlando soltanto di individui ma anche di imprese. Tuttavia spesso le persone si chiedono poi dove vanno a finire effettivamente questi soldi. Ecco, Open Genius vuole rispondere anche a questa domanda. Nova Lab 24. Bentornati Luca Tremolada e Luca Dello Iacovo ai microfoni. Siamo con Andrea Gaggioli, ricercatore di psicologia alla Cattolica di Milano. Tra l'altro una delle ricerche che lei sta conducendo è anche quella che mettono in relazione i mondi virtuali con le terapie di riabilitazione. Esattamente. Ci può dire qualche cosa di più? Sì, volentieri. Dunque, la realtà virtuale penso sia un termine noto a tutti, ma in particolare a questo audience. In poche parole, si tratta di una tecnologia che consente di effettuare una simulazione di ambienti reali generata dal computer. La simulazione è interattiva, nel senso che è possibile muoversi e manipolare oggetti contenuti in questi ambienti come se si trattasse di oggetti reali, grazie all'uso di periferiche di input, cioè di sensori, e periferiche di output, quindi strumenti di visualizzazione e diciamo di manipolazione degli oggetti stessi. È un po' come essere immersi in un mondo virtuale, in effetti. Sì. e poterlo toccare. La maggior parte di voi sarà familiare, insomma, tutta la cinematografia della realtà virtuale degli anni Ottanta. Adesso naturalmente le tecnologie contenute in questa cinematografia sono un po' datate, hanno fatto passi da gigante, addirittura la realtà virtuale oggi può essere addirittura fruita da dispositivi mobili come cellulari. Perché i graphics engine, cioè i motori grafici che supportano appunto la realtà virtuale, possono ormai essere utilizzati anche su questo tipo di piattaforma. Come arriva a essere terapeutica però la realtà virtuale? Allora, parliamo di uno scenario concreto, la neuroriabilitazione. Supponiamo che una persona abbia subito un danno neurologico e debba quindi riapprendere ad esempio dei movimenti che non riesce più a compiere nel mondo reale. Nella terapia tradizionale questi movimenti vengono esercitati e riappresi grazie alla fisioterapia in palestre e nell'ambito dell'ospedale. Spesso però questi esercizi sono un po', diciamo, come posso dire, frustranti, poco motivanti per il paziente. E quindi vengono fatti in un mondo virtuale? Nell'ambito della realtà virtuale, con scenari realistici che rappresentano situazioni di vita quotidiana, e questo permette quindi di avere anche un migliore trasferimento del risultato appreso nell'esercitazione nella vita di tutti i giorni. Ringraziamo Andrea Gaggioli per... Tra l'altro Gaggioli tornerà in trasmissione, perché questo è un tema meraviglioso, questo della realtà virtuale. Tra l'altro ci sono tantissimi film anche che hanno ricamato intorno a questo tema, con Guerra del Golfo e altro. Volentieri. Grazie, noi l'appuntamento è per domani alle 4, ci occuperemo di lavatrici intelligenti, anzi di la battaglia delle lavatrici intelligenti, una cosa stranissima. A domani. A domani.